Rientriamo in diretta su Ristoradio Convento e lo facciamo con lui, lo facciamo con un altro ospite di questa serata. Benvenuto. Ciao a tutti, buonasera a tutti. Allora, come ti chiami? Riccardo. Riccardo, da dove vieni? Castellammare del Golfo. Castellammare del Golfo, che ho una piccola idea di dove sia. Diciamo prima, uscita Bolzano, cos'è Bolzano? No, Ovest. Bolzano Nord, perdonami. Perdonami, perché non sono pratico della zona, E, Castellammare del Golfo, che come dice chiaramente il nome, famosa per le piste da sci. Sì, ce lo raccontavi fuori onda. Sì, senza ombra. Com'è andata la stagione invernale? Ma da Dio! Sì. Neve, neve a go-go. Voi sciate? Sì, tantissimo, sci, dopo sci. Dopo, bravi, esatto, dopo sci, andate forte. Infatti non avevo chiesto questa cosa prima, ma si vede chiaramente perché avete il segno degli occhiali, sì, che sì, è tipico dei maestri di sci, e molto burro cacao. Sì, è da lì che ho capito che probabilmente eravate di Castellammare del Golfo. Pelle bianca, occhi chiari. Esatto, chiari, esatto, sì, esatto. Tedesco, che bravo, bravo, vedi, vedi. Bene, bene, abbiamo fatto anche questo piccolo, questa piccola divagazione turistica e anche semisportiva, ma quello che conta è sapere il motivo che ti porta qui questa sera. Stai festeggiando cosa? Dio, vedendoti vestito così non mi sembra che tu stia festeggiando molto, mi sembra che tu stia soffrendo un po' anche. No. Non hai visto le scarpe? No, avevo dei sandali. Ah, avevi dei sandali? Sandali di legno, pannello alto 3 cm con due zoccoli. Sì. Non ti dico il dolore ai piedi. Immagino, immagino, però diciamo del vestito che insomma non mi sembra leggerino, se vuoi descriverlo. Sì, sì, abito da carcerario. Carcerario, esatto. Manetta, con cintura al collo. È la cintura al collo, esatto, che un po' mi fa. Insomma, mi fa sentire la vicinanza nei tuoi confronti. E perché tutta questa sofferenza, dici un po'? Perché il giorno 7 giugno arriva. Chi arriva? Babbo Natale. Ah no, scusa. La catastrofe. La catastrofe addirittura, che succede? Il fatidico sì. È per quello allora che c'è il tema del carcerato che ritorna per la famosa metafora del matrimonio. Sì, col fatidico sì, il giorno 7 giugno. E tu come la vivi? Come la vivi? Allora, cioè, la vivi così come sei vestito o in modo un po' più positivo? Ni. Oggi ha sciolto le catene. Oggi mi sono liberato del tutto. Sì, dai. Sì. Non mi posso lamentare stasera. Domani mattina te lo so dire. Domani mattina te lo so dire. Bene. Domani mattina vediamo il 5 che dà la ragazza. No, ok, ci sta. Sì, poi sì. Fate il. Vuol dire il briefing, resoconto e vediamo che succede. A proposito di compagnia, ce n'è un po' qui, ci vuoi anche raccontare chi ti accompagna stasera? Allora, non volevo dire amici, ma a questo punto non amici, perché questi sono amici, ma soprattutto anche colleghi, sentivo. Sì, ringrazio i ragazzi veramente di cuore perché mi hanno fottuto alla grande. Diciamo per tutti gli ascoltatori minorenni che non si parla in termini fisici, ma in termini, cioè, mi hanno fregato, metaforici. Che semmai, che se no qui cominciano a pensare che siate una compagnia con gusti particolari. No, ci mancherebbe. Michael, Alex, Francesco Capo, Tiziano, ringrazio tutti veramente della serata e ribadisco, bastardi. No, bene, c'è dell'affetto, si sente del sentimento, si sente. Sì, e come mai? Ringrazio tutti, veramente, però lunedì mattina mi vendicherò. Addirittura, attenzione, perché qui siamo alle minacce. Però ribadisco, voglio bene a tutti e ringrazio tutti. Mi piace perché c'è questo sentimento di amore e odio che si manifesta in una frase e nella frase successiva il sentimento opposto. Quindi mi piace che c'è tipo Dottor Jekyll e Mr. Hyde, un po' questo ragazzo che. E come mai li definisci così? Perché mi hanno fatto soffrire. Ah, ok. Mi hanno fatto divertire. Ah, giusto, quindi è una. Certo, cioè, ma secondo me loro sono stati, come dire, fin troppo profetici nel metaforizzare il matrimonio. Che è comunque difficile, ma è una soddisfazione, no? Sì. L'unica pecca. Eh sì, è vero, forse hai ragione anche tu. forse nemmeno so perché l'ho detta, tutto questo. Che ripeto, per i sandali. Tutto andava da Dio. Tutto bene, tranne i sandali. Va bene, l'hanno, i sandali. L'hanno segnato questi sandali, l'hanno segnato nel profondo. E anche sui piedi, ti dirò, mi hanno segnato anche sui piedi. Sì, nell'animo e nei piedi. Nell'animo e nei piedi, direi che potrebbe essere, come dire, una buona idea, magari riproporlo il giorno del matrimonio, per insomma, rivivere, rivivere questa sensazione. Ribadisco, se qualcuno di loro si sposerà, mi vendicherò. Ti vendicherò, ti vendicherò. Beh, tu segna, fatti un bel, un bel blocchetto, un block notes, e scrivi tutto, scrivi tutto. Ringrazio sempre tutti e quattro. Benissimo, perfetto. Non è... Ah, questa è la partenza. Sì, sono abbastanza fastidiosi. Sì, cioè, insomma, li percepisco già, percepisco il dolore solo vedendolo. Sì, immagino. Che è un po' un incrocio tra zio Marrabbio e un lottatore di sumo. Esatto. È un lottatore di sumo, quindi. Ci sta anche Jigen. Sì, bravo, anche un po' Jigen, assolutamente sì. Allora, ragazzi, grazie mille. Grazie a te per averci raccontato un po' della tua serata, nonostante insomma la sofferenza, ma hai sottolineato l'aspetto del divertimento, della gioia di condividerla con loro, che è quello che conta. E ovviamente tantissimi auguri per il tuo futuro matrimonio. Grazie ragazzi, alla prossima. Buonanotte. State ascoltando Ristoradio Convento.